cui nome pota dall'incide oltre le mete. A te l'armi deposte offre la pace. Se la bella Arianna al suo letto regal cener ti piace, di tosto vessato e di a quell'erbio che un uom della Bitinia, un vil pirata, non è degno d'agosto. Il sangue al suolo cadrà quel superbo e sull'arena mi pagherà del follardir la pena. Cesare, hai troppo acceso dall'ire il forte cor, meglio risolvi. Vanne! Che il fellon, che Augusto offeso, già desta il suo furor, già il brando ferra. Chi la pace ricusa avrà la guerra.